Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Il marito era completamente fatto, completamente inebetito, non ne fregava niente della moglie, cioè lui ha detto: ma io sono, voglio dormire, non mi disturbate. Mi girai verso Angelo, ma prima che aprissi bocca disse: non sono scemo e non ho bevuto, ti giuro, l'ho vista. Storie di un salvataggio improvviso e di un allontanamento dai precetti familiari in una puntata che si intitola Stupefacenti. Dunque, ricordati. Cosa? Se pensano che non ci provi, sei nei guai, giusto? Il primo segnale vanno da quelli del sussidio. Questo stronzo non ci prova neanche. E il tuo assegno va a farsi fottere, giusto? Giusto. Però se ci provi davvero... Quelli sono cazzi di darti il posto. Esatto. Un incubo. È una fune acrobatica. Sei su una fune acrobatica. Vedi, mi blocca la timidezza con quelle belve di intervistatori. Divento nervoso, non rispondo alle loro domande, tipo quei calciatori. Mi metto a tremare nelle grandi occasioni, bello. Prova con questa spada. Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla. L'episodio di Trainspotting in cui Spud, l'amico del protagonista, deve andare a fare un colloquio e prima di fare un colloquio fa una cosa che non è proprio, diciamo, un'ottima idea. Prende delle anfetamine e poi il colloquio è quello che, se avete visto Trainspotting, probabilmente vi ricorderete. È Linee d'ombra, la puntata di oggi si intitola Stupefacente e tra pochissimo capirete anche il perché. Perché vi raccontiamo storie prese, una arriva direttamente da New Yorker, l'altra invece arriva da un direttore d'albergo che ha lavorato ad Amsterdam e si è trovato davanti ad una situazione, quella che ci racconta, molto, diciamo così, particolare. Linee d'ombra è questo programma, è un programma che racconta storie e che vi chiede di raccontare storie. Cerchiamo di fare una sorta di fotografia di chi siamo oggi, non da un punto di vista numerico, ma da un punto di vista umano, forse qualitativo, sì, non quantitativo ma qualitativo, attraverso appunto le storie di confine che ci mandate a lineedombra@radio24.it. Ogni storia che arriva ha un suo respiro e ha una sua storia, appunto, ha una sua dinamica interna e ha un'area di provenienza, una persona di provenienza. Quando ci chiedono ma che storie raccontate, storie d'amore, noi rispondiamo: non solo storie di sport, non solo storie di montagna, storie di viaggi anche, ma non solo, perché la questione legata a Linee d'ombra non è il tema, ma è semplicemente il varco che a un certo punto avete valicato nella vostra vita, quella linea di confine oltre la quale non eravate più gli stessi, magari per poco. Non deve essere per forza un cambiamento radicale. Di solito la linea d'ombra è associata, forse perché il romanzo da cui prende il nome, Linea d'ombra, è associata al passaggio dalla giovinezza all'età adulta, ed arrivano storie che raccontano quel pezzo della vita, ma dicevo appunto non solo. Se per caso avete vissuto un momento importante di passaggio e di superamento di quel passaggio, potete raccontarcelo mandandocelo a lineedombra@radio24.it. Noi la prendiamo e ci facciamo una puntata partendo da qua, partendo da una storia che arriva direttamente da Amsterdam e parla di hotel, parla di donne che decidono di guardare giù dal balcone o giù dalla finestra della loro stanza, e parla anche e soprattutto di stupefacenti. Benvenuti a Linee d'ombra. Mi trovavo come ogni giorno nel mio ufficio all'ottavo piano dell'albergo che dirigevo da molti anni nel centro di Amsterdam, accostato al celebre mercato di fiori. All'improvviso, dall'ufficio accanto al mio, sento il mio direttore amministrativo gridare: «Ma che fa? Si butta, si butta!» Il tono di Angelo era altissimo e drammatico, e conoscendolo bene sapevo che era una persona molto calma e pacata. Mi alzai dunque di scatto e corsi verso il suo ufficio, che distava una decina di metri. Entrando lo vidi di spalle, con le mani alzate al cielo che ritmicamente faceva scendere sugli occhi. «Si è buttata, si è buttata!» diceva. «Angelo, che succede?» dissi ripetutamente. Lui si girò di scatto con gli occhi sbarrati, il viso paonazzo, e ripeté: «Si è buttata!» disse mia volta, «s'è buttata chi?» E lui rispose, «una cliente». Gli uffici dell'albergo, dislocati sul tetto dell'edificio, s'affacciavano da un lato su dei terrazzini di alcune camere dell'hotel, prospicienti una strada parallela al mercato dei fiori, ovvero il centro del movimento notturno. Una zona piena di ristorantini, locali di dubbia fama, a quell'ora ovviamente erano deserti ancora. Mi affacciai, ma non riuscivo ad avere nessuna visuale in quanto la linea delle finestre dei nostri uffici era arretrata di 2 o 3 metri dal bordo dell'edificio. Angelo continuava a ripetermi: l'ho vista, prima si è seduta sul davanzale del balcone, poi si è lasciata cadere. Sei sicuro? Gli chiesi 2 o 3 volte. Ma certo, disse lui, mica ho bevuto. Vabbè, dissi leggermente incredulo, andiamo giù a vedere. Intanto avvertii tramite interfono la portineria, le dissi di chiamare pompieri, Croce Rossa. Non prendemmo gli ascensori per non doverli aspettare e giù a rotta di collo lungo le scale, con Angelo che continuava a ripetere l'ho vista, e io che cercavo di prepararmi psicologicamente allo spettacolo drammatico di un corpo sfracellato che avrebbe dovuto trovarsi praticamente di fronte all'entrata posteriore dell'hotel. È un albergo essenzialmente per uomini d'affari lungo la settimana, da lunedì a venerdì, che si trasformava poi in albergo di turisti lungo il weekend, ed era nel centro di Amsterdam, forse nel posto più centrale di Amsterdam, dove c'è il mercato dei fiori, diciamo un albergo che durante gli anni che ho diretto io era diventato un po' il faro dell'italianità, tant'è che avevamo anche un ristorante di grande qualità e io mi pecco di aver introdotto il risotto in Olanda dove nessuno lo conosceva. Arrivati al piano terreno, di fronte alla pesante porta in ferro dell'ingresso, interloquimmo con l'economo, che aveva l'ufficio accanto all'ingresso, chiedendogli «Tu hai sentito niente?» «No», disse, «niente». Decisi di aprire la porta, rimandando a dopo eventuali spiegazioni. Aprii piuttosto titubante, ma mi trovai di fronte a una strada totalmente deserta. Nessuno, e di cadaveri nemmeno l'ombra. Mi girai verso Angelo, lo guardai con un misto di incredulità e preoccupazione e lui, prima che io aprissi bocca, disse «Non sono scemo e non ho bevuto, ti giuro, si è buttata, l'ho vista!» Uscimmo tutti in strada e cercandoci ritrovammo a girare intorno ad una capanna per gli attrezzi, per lavori stradali. Tentammo anche di aprirne la porta, ma senza riuscirci. Riguardai Angelo, lui diventò sempre più paonazzo e continuò a ripetere ad alta voce le stesse parole «Si è buttata, l'ho vista, si è buttata!» A me, più per venire in aiuto ad Angelo, di cui avevo la massima stima, che per convinzione personale, venne un dubbio. Che fosse caduta proprio nella capanna degli attrezzi. Proposi agli altri di salire al primo piano per vedere se da lassù si vedesse qualcosa. Corremmo al primo piano, ci affacciammo alle finestre e nel mezzo del tetto della capanna degli attrezzi, fatto di plastica, notammo un buco. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monks, let's a funk flow, someone's fucking jump. Yeah, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in the trunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. C'era veramente un buco, non certo grandissimo. Angelo urlava, avete visto, avete visto? Ricorsi giù per le scale, uscii dal portone di ferro e nel frattempo erano arrivati i vigili del fuoco che ovviamente presero il comando delle operazioni, forzarono la porta della capanna, entrarono per primi e dopo pochi attimi, con mia grande sorpresa, ne uscirono scherzando e invitandomi ad entrare. La ragazza era appoggiata con la schiena alla parete della capanna, le gambe distese, si guardava, girandole e rigirandole, le mani con aria assente, totalmente distaccata dalla realtà. Illesa, forse qualche graffio ma non visibile. Arrivò l'autoambulanza, la portò via, lasciandoci del tutto increduli. Era volata dal 7° piano. Ripeto, 7° piano. E non si era fatta niente. Lei è praticamente si è buttata tipo esattamente come l'abbiamo trovata, con le gambe in avanti e il, diciamo, ad angolo retto, no? Ed è scesa col sedere, penso, sfondando questo tetto che ha fatto da ammortizzatore, perché era un tetto di plastica, e quindi non si è fatta niente. È incredibile, sì. A quel punto ci venne in mente di controllare la camera e con nostra grande sorpresa trovammo sul letto disteso il marito. Erano in viaggio di nozze, era totalmente fatto. E alla comunicazione della notizia, sorridendo, ci disse: «Ah sì, ma davvero?» E sempre sorridendo concluse: «Però io adesso ho sonno, lasciatemi dormire». Naturalmente lo facemmo trasportare in ospedale. Giorni dopo vennero i genitori a ritirare i loro bagagli, ci ringraziarono senza grande calore e ci confermarono che la ragazza, in seguito alla caduta, aveva avuto qualche piccolo insignificante problema ad un ginocchio. Naturalmente questo era il risultato dei funghi allucinogeni venduti nella strada accanto e che continuarono ad essere venduti, tant'è che qualche settimana dopo anche un altro ragazzo si buttò dal primo piano fratturandosi gamba, braccio e qualche costola. Si intitola stupefacente la puntata di oggi di Linee d'Ombra, avrete anche capito il perché, soprattutto perché la storia di Mariano, come ci ha detto fuori onda, è solo una delle tantissime storie che ha vissuto e che potrebbe raccontare sulla sua vita e sul suo lavoro ad Amsterdam e anche riguardo evidentemente alla stupefacenza. Pronto, ciao Mariano, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai Mariano, tutto bene? Bene, bene, molto bene, grazie. Senti, la storia risale al 2003, inizio 2000, giusto, grosso modo? Sì, grosso modo, sì, tu, certo. Da quanto, o per quanto hai fatto questo lavoro? 44 anni, ho lavorato negli alberghi, cominciando dalle cose più semplici fino a diventare direttore di alberghi importanti come Amsterdam, Londra, e sfiorando quasi la direzione generale di tutta la compagnia, quindi mi sono divertito per 44 anni. È un lavoro che immagino abbia una componente, cioè, di grande stress per certe situazioni, certo. Ma anche molto divertente, però ogni volta che vado in un hotel mi sembra di vedere cose che succedono, figurati quante ne vedete voi. Certo, certo, guarda, io dico sempre, ho lavorato moltissimo perché il lavoro d'albergo richiede una presenza, almeno richiede oggi, forse le cose sono un po' cambiate, di 12 ore al giorno, spesso 6-7 giorni a settimana, però mi sono sempre divertito molto. Tant'è che ho smesso con un grande rimpianto, ma mi hanno fatto smettere a 65 anni perché non si poteva lavorare più. Senti, quindi insomma questo è uno degli episodi legati ad Amsterdam, mi sembra di capire, mi ha detto, sì, Anita. Sì, beh, ce ne sono stati, questo è il più eclatante perché, per ovvi motivi, come hai visto, ma insomma ce ne sono stati parecchi. Ma per capirci, questa ragazza è stata una miracolata oppure voleva scendere dalla finestra, non si è capito? No, io non so se tu hai una conoscenza di questi funghi allucinogeni. Per sentito dire. Ecco, non diretta. Anch'io anche per esperienza, avendo visto 4-5 casi non così gravi, ma comunque con conseguenze pesanti, ecco. E questi funghi danno probabilmente la stessa sensazione, credo, anche qui non ho un'esperienza, dell'LSD, cioè praticamente perdono i valori sensoriali, per cui lei pensava di volare. Ma lei si è lasciata cadere come, come qualcuno si lascia cadere su un letto, ecco, esattamente, praticamente nella stessa posizione. Quindi insomma le è andata bene semplicemente di prendere il tetto di questo capannetto degli attrezzi? Assolutamente sì, assolutamente sì. E i vigili del fuoco, insomma le forze dell'ordine, hanno reagito in una maniera bizzarra, mi sembra di capire. Sì, perché devi contestualizzare in Amsterdam questi casi, in qualche modo loro, per loro sono usuali, nel senso che molto spesso sono chiamati a come dire, a intervenire su soggetti drogati o comunque fuori testa, e quindi spesso si arrabbiano anche perché per loro è una perdita di tempo. Esatto, certo. È una perdita di tempo. Certo, in questo caso si sono messi obiettivamente a ridere, perché ridevano, diciamo la verità, perché era così, così strano anche per loro. Sì, sì, è chiarissimo che se ne sono andati. Il marito ovviamente non pervenuto, anche lui? Non pervenuto, assolutamente non pervenuto, né prima né dopo, mai più visto né sentito. E senti, i genitori cosa, li hai incrociati, ci hai parlato? Sì, sì, brevemente, perché erano, era un po' difficile, però erano molto imbarazzati, molto imbarazzati. Si vedeva che non vedevano l'ora di scappare con le cose che... Senti, l'ultima cosa, Mariano, c'è qualcosa che accade o tipica della vita di un albergo che il cliente proprio non percepisce, qualcosa di che rimane solo ed esclusivamente tra i dipendenti e le persone che ci lavorano? Ma diciamo che tutte le preparazioni, forse più nel ristorante, perché noi avevamo anche un ristorante molto famoso in cui sono venuti a mangiare il meglio dell'Olanda, ecco, forse più nella ristorazione, perché nel dormire, diciamo che le cose sono abbastanza scontate, ecco, nella preparazione dei cibi talvolta vengono delle situazioni pazzesche, tipo, non so, i clienti sono a tavola e non c'è nessuno in cucina, ecco. Okay. Okay, questo è un esempio successo. Chiarissimo, sì. Mariano, ti ringrazio per la storia. Sappi che se tu hai voglia di raccontarcene qualcun'altra, conosci il nostro indirizzo di posta e la raccontiamo molto volentieri. Sì, appunto, forse lo farò, perché sono veramente divertenti. Bene, bene. Mariano, in bocca al lupo per tutto. A presto, grazie. Grazie, a presto. Ciao, buona giornata. Ciao. Insomma, storie di viaggi di nozze in questa puntata che in realtà si intitola Stupefacente qui a Linee d'Ombra. Grazie a Mariano per quello che ci ha raccontato. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo sempre a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei ma proprio no. solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic underscore 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! No! Linee d'ombra. La chiesa in cui sono cresciuto era così grande che la chiamavano il Pentagono. Non era una singola struttura, ma un campus costruito negli anni 80 e distribuito su 42 acri in un quartiere verdeggiante e bianco, 10 miglia a ovest del centro di Houston. Un viale circolare con una fontana al centro conduceva a un santuario bianco anch'esso, accanto c'era una piccola cappella con le pareti azzurro chiaro. C'erano anche una scuola, un ristorante, una libreria, 3 campi di basket e un centro fitness. Avrei potuto trascorrere tutta la vita all'interno del Pentagono, iniziando dalla scuola materna, proseguendo fino alla 12ª elementare, sposandomi nella cappella, frequentando lo studio biblico per adulti ogni fine settimana, battezzando dei miei figli nel centro di culto e incontrando i miei compagni di pensione per il paddle e un panino con insalata di pollo, sicuro della consapevolezza che i miei cari si sarebbero riuniti nel santuario per onorarmi dopo la mia morte. Ma non è andata così. Inizia in questo modo il racconto di Jaya Tolentino, una giornalista del New Yorker che ha raccontato in prima persona il suo percorso di crescita in un lungo reportage. In questa puntata che si intitola Stupefacente, la seconda storia è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. I miei genitori non erano sempre stati evangelici. Erano cresciuti cattolici nelle Filippine e dopo essersi trasferiti a Toronto, pochi anni prima che io nascessi, avevano frequentato una piccola chiesa battista. Quando nel 93 si trasferirono a Houston, trovarono ovunque la faccia di un pastore che sorrideva ai pendolari dai cartelloni pubblicitari che punteggiavano la statale. Iniziarono così a frequentare regolarmente i servizi e subito dopo vennero persuasi dagli amministratori della scuola a iscrivermi in prima elementare, anche se avevo solo 4 anni. Durante le lezioni bibliche quotidiane realizzavo braccialetti su minuscoli cordini di cuoio. In daily Bible classes I made salvation bracelets on tiny leather cords, a black bead for my sin, a red bead for the blood of Jesus, a white bead for purity, a blue bead for baptism, a green bead for spiritual growth, a gold bead for the streets of heaven that awaited me. Ancora alle elementari, la mia famiglia si trasferì più a ovest. Le questioni spirituali sembravano semplici e assolute. Volevo essere buona e non volevo essere cattiva. Allora credere in Dio sembrava per lo più insignificante, occasionalmente interessante e ogni tanto come un brivido. Nella Bibbia i padri offrivano i loro figli per essere sacrificati. I pesci si moltiplicavano, la progressione da fin dell'orrore delle piaghe, delle città bruciate, del sangue, le rane, le locuste, l'oscurità, la violenza del cristianesimo arrivava con grande sicurezza. Sotto un piacevole velo di mistero estatico c'erano chiare prescrizioni su chi sarei dovuta diventare. Pregavo ogni notte, ringraziando Dio per la vita meravigliosa che mi aveva concesso. Nei fine settimana pedalavo con la bici su un grande tratto di pascolo nella luce del tardo pomeriggio e mi sentivo santa. Ma verso la fine della scuola elementare questa sicurezza cominciò a vacillare. Un insegnante mi consigliò di boicottare i film Disney perché Disney World aveva permesso ai gay di ospitare una parata. Un altro insegnante confiscò i miei fumetti e il mio taccuino con il segno della pace, sostituendo questo armamentario pagano con una copia del nuovo bestseller della Seconda Venuta. Tre ragazze morirono, fulminate quando una luce della piscina dove stavano nuotando andò in corto e questa tragedia fu considerata come la volontà del Signore. Alla scuola media ho iniziato a provare sensi di colpa alla fine di ogni servizio in chiesa. Mi era stato insegnato che la mia relazione con Dio sarebbe decaduta se non fossi stata attenta. Se volevo il perdono di Dio, dovevo lavorare. Ho iniziato a sentirmi agorafobica nel centro di culto. Pensare a queste cose intime in un luogo pubblico così affollato era indecente. Una domenica dissi ai miei genitori che avevo bisogno di un maglione della macchina. Nel parcheggio il sole mi bruciava gli occhi e ammorbidiva l'asfalto. Sono salita sul sedile del passeggero e ho inserito la chiave nell'accensione. La stazione radio cristiana stava trasmettendo Dio ascolta. Ho premuto il pulsante e la frequenza è andata a qualcosa che non avevo mai sentito prima. Era una stazione radio hip hop di Houston. Suonava magnificamente. Quella musica era fantastica. Sembrava che mi stessi muovendo molto lentamente verso qualcosa che non avevo bisogno di capire. Mi è suonata giusta non appena l'ho sentita. Quell'estate passai al liceo, passavo le mie serate in un gruppo di giovani dove per 4 giorni la settimana cantavamo canzoni religiose e per gli altri 3 andavamo in un club di Houston, tutti cercavamo la salvezza in modo diverso. A 15 anni ho abbandonato la religione, ma sono sempre stata contenta di essere cresciuta come sono cresciuta. Il Pentagono mi ha insegnato a sentirmi a mio agio in ambienti strani, isolati, estremi e il cristianesimo ha formato i miei istinti più profondi. Mi ha dato una visione del mondo progressista. Il desiderio di seguire i leader che si sentono vicini agli affamati, ai carcerati, ai malati. Le persone della mia scuola spesso sussurravano le parole messicano o nero, supponendo istintivamente che quelle descrizioni fossero insulti. I Vangeli predicano la redistribuzione economica, ma tutti intorno a me sembravano credere principalmente nelle tasse basse e nella giustizia della guerra in Iraq. La Chiesa stava da un lato della mia vita e quello che volevo stava dall'altro. Ero nel mezzo, cercando di sciogliere una tensione che a un certo punto ho smesso di sentire. Alla fine, quasi senza rendermene conto, ho lasciato andare una parte. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, no. I finesse down Western Road, like, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. Still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. L'anno in cui ho smesso di credere in Dio, il 2006, è stato anche l'anno in cui ho fatto per la prima volta uso di ecstasy nell'appartamento di un college di un amico. Abbiamo ingoiato pillole che erano state schiacciate in fazzoletti e poi siamo scivolati in una scatola nera sudata di un locale di musica in fondo alla strada. Mi sono sentita senza peso, come se fossi tornata a una verità che mi era stata insegnata per la prima volta in chiesa, che tutto può succedere e una sorta di grazia che era sia dentro di me sia fuori mi trascinava. Come molte persone prima di me, ho trovato la religione e le droghe attraenti per ragioni simili. Entrambi forniscono un percorso verso la trascendenza, un modo per accedere a un mondo extraumano di estasi e perdono. La parola estasi suggerisce questo etimologicamente, provenendo dal greco ecstasis, ek che significa fuori, e stasi che significa qualcosa come stare in piedi. Essere in estasi significa stare al di fuori di se stesso. L'ultima volta che ho partecipato a qualcosa del mio vecchio campus della chiesa è stato il diploma di scuola superiore. Indossavo un prendisole a fiori bianchi sotto una veste blu ed ero sul palco del centro di culto. Ricordo a malapena quello che ho detto. So di aver fatto almeno una battuta sul Pentagono. I miei compagni di classe gridarono e mentre attraversavo il palco per farmi consegnare il mio diploma, un amministratore sibilò la sua disapprovazione. La distanza tra il luogo che mi aveva formato e la forma che avevo preso era allo scoperto e si allargava. Mi chiedo se fossi cresciuta in un posto diverso da Houston, se sarei rimasta religiosa, magari anche in un'epoca diversa. Mi chiedo quanto sarei diversa se fossi stata in grado di trovare un sentimento di devota autodistruzione solo attraverso Dio. Invece ho confuso la religione con la droga con la musica e la musica con la religione. Non posso dire se la mia inclinazione verso l'estasi è un segno che crede ancora in Dio, o se al contrario, ho sempre soltanto cercato solo quell'aspirazione estatica. Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. The fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals and that fat, slow generals are getting obscene on young blood. You know we are ruled by TV. The moon is a dry blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. The moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we more into the nightmare, cling to life, our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap, Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled. La storia che avete appena sentito l'abbiamo trovata sul New Yorker, questo magazine americano che spesso dà la penna a degli scrittori o a dei contributor, come vengono chiamati, e gli chiede di raccontare una storia loro, personale. Questa è una storia che è uscita nel maggio del 2019, lei si chiama Gia o Gia Tolentino e proprio si intitola Losing Religion and Finding Ecstasy in Houston, in una puntata che si intitola Stupefacente. Tra pochissimo, dopo Le strade in diretta, torniamo con la storia di Antonio Cocco. Linee d'ombra. Qualche puntata fa ho cercato di specificare, di raccontare un pochettino meglio che cosa fosse la legione straniera, perché mi sono accorto di avere dato un pochettino per scontato che cosa fosse questo corpo dell'esercito francese in cui si arruolano persone che arrivano da tutto il mondo, francesi anche, ma soprattutto persone straniere, soprattutto persone che di solito si dice hanno qualcosa da nascondere o scappano da qualcosa. Per questo è considerato uno dei posti pieni di reietti della società, che non hanno paura, non hanno timore di nulla e combattono appunto sino allo stremo delle forze con una disciplina ferrea. Insomma, è soprattutto un motivo per cui non si sa mai, quasi mai, dov'è e che cosa fa la legione straniera. Insomma, in questa puntata Mauro Pescio, nel raccontare la storia di Antonio Cocco, decide di accantonarla per un secondo per entrare un pochettino di più nelle dinamiche. Nelle dinamiche della legione straniera. Lui l'ha chiamata questo episodio il luogo dell'oblio, cioè il posto in cui in sostanza si viene dimenticati, e per raccontarlo ha preso testimonianze di persone che in quel corpo, in quel luogo dell'oblio, ci sono andate e sono tornate. Essendo la legione straniera un luogo d'oblio, non è difficile leggere nelle provenienze geografiche dei soldati le turbulenze politiche di ogni tempo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ad entrare nelle file della legione straniera sono volontari relativamente giovani di età, reduci dalle sconfitte della guerra. Italiani, tedeschi, austriaci e poi ancora jugoslavi, scandinavi, baltici, rumeni, ungheresi, polacchi e cechi. Nella lettera che manda la legazione d'Italia a Saigon al padre l'inverno dopo la morte di Tony, dicendogli che stanno facendo il possibile per recuperare il corpo, ma ci vuole, la Francia ha detto sì, ma ci vuole l'autorizzazione di Hanoi ad andare lì, come si fa, insomma. Le sia di conforto sono stati circa 5.000 connazionali, hanno partecipato alla guerra di Indocina e 1.000 sono caduti in combattimento. Quindi vedi, era sì un problema di personale, del figlio scappato di casa, arruolato nella legione senza che sapesse, senza essere maggiorenne, perché a 18 anni non era maggiorenne allora, senza sapere cosa fosse la legione. Ma quanti ragazzi a cercare lavoro e poi sono stati presi e hanno subito il ricatto di fronte al quale si trova Antonio? O ti arruoli nella legione oppure torni con le manette in Italia, ti fai almeno ci fai qualche mese di galera e chissà se tuo padre ti vorrà mai a casa. Dopo il colloquio di arruolamento, le reclute si radunano a Marsiglia e, in attesa dell'imbarco per l'Algeria, sono ospitate nel vecchio Forte San Nicolas, una fortezza seicentesca, proprio all'ingresso del bacino portuale. Situato su un piccolo promontorio, collegato alla terraferma da una lingua di terra, il forte è isolato dalla città e si presenta squallido, degradato e malsano. Quella che segue è la testimonianza presa dall'autobiografia di Andrea Furnitto, un legionario italiano che si era arruolato negli anni 40. Non appena i battenti del pesante portone vengono chiusi, troviamo ad accoglierci in un cortile amplissimo una decina di nerboruti caporali muniti di scudiscio, i quali, coprendoci di insulti e di improperi, ci strattonano, ci spingono e ci dividono in gruppi. Dopo questo benvenuto ci portano a dormire senza farci cenare. In fila per uno ci fanno scendere per un'angusta scalinata che conduce in alcuni locali sotterranei. Sono celle ampie, dalla volta ribassata, i muri sono umidi e si sente un forte odore di muffa. Per terra sono disposti i pagliericci su cui dormire. Nessuno parla, ci hanno urlato che è proibito. Sembra quasi una cerimonia di iniziazione. Il giorno dopo, con la sveglia comincia l'inferno, un addestramento estenuante, ossessivo, che non smette mai. E poi lezioni di francese che dobbiamo imparare in fretta perché ogni incomprensione costa cara. Un altro legionario inglese, arruolato nel 1951, un anno prima di Tony, nel suo diario scrive: dall'alba al tramonto, di giornate umide e fredde sotto un cielo di nubi, guardavamo i punti luminosi del porto, ammassati in camerate inospitali. L'aria annebbiata dal fumo pungente del tabacco francese, non eravamo ancora legionari, ma non eravamo più dei civili. Sembrava fossimo prigionieri, ma senza i diritti limitati e il minimo di sicurezza che in genere sono accordati ai prigionieri. Le nostre vite quotidiane erano controllate dal grosso caporale tedesco con cui avevo parlato al mio arrivo. Il caporale si era guadagnato i suoi modesti galloni con il numero imprecisato di disperati che tutte le settimane arrivavano dai confini del mondo. Comunicava a fischi e urla largamente supportati dai calcioni. Sporadicamente qualcuno cercava di resistergli. Di lì a poco si materializzava un gruppo di legionari che portava via il malcapitato, riempiendolo di botte. A volte nessuno lo rivedeva più. Congedato all'istante perché indesiderato. A volte tornava presto, malconcio e obbediente alle celle. L'impatto è brutale. I più deboli marcano visita e se ne vanno. I più riottosi vengono puniti e allontanati. I più forti e i più disperati resistono. E dopo 2 mesi di fatica, di urla e di bestemmie, firmano il foglio di arruolamento e si imbarcano per l'Africa. Destinazione Sidi Bel Abbès. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a killer, I know I'm wrong, yeah. I'm a problem that I never ever be solved. And no matter what, you'll never take that from me. see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a maven. I know this world is changing. Never gave in, never gave up. I'm the only thing I'm afraid of. No matter what, you'll never take that from me. My reign is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. E allora grazie a Mauro Peggio che raccoglie questa storia, grazie all'archivio dei diari che ci permette di raccontarla e alla famiglia Cocco che ce l'ha consegnata tra le mani. Grazie a Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni che rendono possibile questo programma. Voi usate questo fine settimana per mandarci delle storie, se avete voglia, storie di confine, storie di linee d'ombra, lineedombra@radio24.it. Noi la prendiamo e ci facciamo una splendida puntata. Ci sentiamo lunedì, sempre da qui, da Radio 24, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.